per farvi sapere che... Ad alta voce, Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens. Mio caro signor Pip, vi scrivo la presente dietro richiesta del signor Gergery per farvi sapere che egli sta per recarsi a Londra in compagnia del signor Wopsle e sarebbe contento, se vi facesse piacere, che gli fosse concesso di vedervi. Egli si presenterebbe al Barnard's Hotel martedì mattina alle 9. Se non facesse piacere, lasciatelo detto, per favore. La vostra povera sorella è quasi la stessa di quando siete andato via. Parliamo di voi in cucina ogni sera e ci domandiamo che cosa state dicendo e facendo. Se vi pare che ora io mi prenda una libertà eccessiva, scusatemi, in nome dei tempi passati. Nient'altro, caro signor Pip. Dalla vostra sempre grata e affezionata serva, Biddy. Post scriptum. Egli desidera in modo particolare che io scriva che risate. Dice che voi capirete. Spero e non dubito che vi farà piacere di vederlo, per quanto ora siate un signore, perché avete sempre avuto buon cuore. E lui è un degno, degno uomo. Gli ho letto tutto, eccetto quest'ultima frase. Ed egli desidera in modo particolare che io scriva ancora che risate. Ricevetti questa lettera il lunedì mattina, perciò l'appuntamento era per l'indomani. Lasciatemi confessare esattamente con quali sentimenti mi preparai alla venuta di Joe. Non con piacere, per quanto fossi unito a lui da tanti legami. Al contrario, con disagio, con una certa mortificazione e un senso acuto di sconvenienza. Se avessi potuto tenerlo lontano sborsando del denaro, avrei pagato qualsiasi somma. La sola cosa che mi tranquillizzava era che egli sarebbe venuto alla locanda di Barnard, non a Hammersmith, e per conseguenza non si sarebbe incontrato con Bentley Drummond. Mi importava ben poco che egli fosse visto da Herbert o da suo padre, che rispettavo entrambi, ma mi torturavo al pensiero che potesse essere visto da Drummond, che disprezzavo. Così accade nella vita, che le nostre peggiori bassezze e viltà siano commesse di solito per amor di coloro che più disprezziamo. Avevo cominciato ad arredare le nostre camere nel modo più inutile e inadatto, e queste lotte con Barnard riuscivano sempre molto costose. Ormai l'alloggio aveva un aspetto assai diverso da come lo avevo trovato, ed io avevo l'onore di riempire alcune pagine cospicue nei registri di un vicino mobiliere. Di recente avevo fatto dei progressi così rapidi da aver persino inaugurato un domestichino in stivali. Stivali alti, del quale si poteva dire che passavo i miei giorni in suo servaggio e schiavitù. Perché dopo aver prelevato questo essere dalla parte più scadente della famiglia della mia lavandaia ed avergli messo indosso una giacca blu, un panciotto canarino, una cravatta bianca, delle brache color crema e gli stivali sommenzionati, avevo dovuto trovargli qualcosa da fare e un bel po' da mangiare, e la mia esistenza era ossessionata da ambedue queste orrende necessità. Questo spettro di vendetta ricevette l'ordine di trovarsi di sentinella alle 8 del martedì mattina, nell'anticamera, ampia 2 piedi quadrati secondo il costo del tappeto che la ricopriva, e Herbert suggerì per la colazione alcune cose che secondo lui sarebbero piaciute a Joe. Mentre gli ero sinceramente grato di mostrare tanta premura e bontà, ero però pervaso dallo strano, semi-provocato sospetto che se Joe fosse venuto a trovare lui, egli non avrebbe dimostrato altrettanta allegria. Tuttavia venne in città la sera del lunedì per trovarmi pronto a ricevere Joe, e al mattino mi alzai presto per mettere in pieno splendore il salottino e la tavola della colazione. Purtroppo la mattinata era piovigginosa, e neppure un angelo sarebbe riuscito a celare il fatto che Barnard stava riversando lagrime di fuliggine fuori dalle finestre, quasi fosse un gigantesco spazzacamino dal cuore tenero. Man mano che si avvicinava l'ora, avrei voluto scappar via, ma il vendicatore, conformemente agli ordini, era di fazione in anticamera. E poco dopo sentii Joe sulle scale e riconobbi che era lui dal suo modo goffo di salirle. Le scarpe della festa gli erano sempre troppo larghe e di altro tempo che gli ci volle per leggere i nomi sugli altri piani durante la salita. Quando finalmente si fermò dinanzi alla nostra porta, potei sentire il suo dito che seguiva ad una le lettere dipinte con il mio nome, e poi lo sentii respirare dentro il buco della serratura. Infine bussò una sola volta e timidamente, e Pepper, tale era il nome compromettente del vendicatore domestico, annunciò: «Il signor Gargery!» Pensavo che non avrebbe mai finito di ripulirsi i piedi e che avrei dovuto andare io a toglierlo dal nettapiedi, quando finalmente entrò. «Joe, come stai, Joe caro?» «Pip, come stai, Pip caro?» Con il suo volto buono e onesto, tutto arrossato e lucente, e il cappello posato per terra tra noi due, mi prese tutte e due le mani e le agitò energicamente, in su e in giù, come se io fossi stato una pompa ultimo modello. «Sono felice di vederti, Joe. Dammi il cappello!» Ma Joe, che lo aveva raccattato accuratamente con tutte e due le mani, come se fosse un nido di uccelli con le uova dentro, non voleva saperne di separarsi da quell'oggetto di sua proprietà, e insisteva nel rimanere a chiacchierare in piedi, tenendolo in mano, nel modo più scomodo. «Quanto sei cresciuto!» disse Joe. «E ingrossato! E insignorito!» Joe rifletté un poco prima di trovare questa parola. «Di certo fai onore al tuo re e al tuo paese. E tu, Joe, hai l'aria di stare proprio bene. Grazie a Dio sto abbastanza bene. E tua sorella non sta peggio di come stava. E Biddy è sempre brava e svelta. E tutti gli amici non sono andati indietro, seppure non sono andati avanti. Eccetto Wopsle. Lui è caduto in basso.» In tutto questo tempo, sempre prendendosi molta cura con tutte e due le mani del nido di uccelli, Joe volgeva gli occhi da ogni parte della stanza e considerava il disegno a fiori della mia vestaglia. «È caduto in basso, Joe.» «Ebbene sì», disse Joe abbassando il tono della voce. «Ha lasciato la chiesa e si è messo a fare l'attore. Ed è proprio questo che lo ha portato a Londra insieme con me. E il suo desiderio sarebbe», disse Joe mettendosi per un momento il nido di uccelli sotto il braccio sinistro e con la destra frugandovi dentro come alla ricerca di un uovo, «che, se non ti offendi, io ti consegnassi questo.» Presi quello che Joe mi tendeva, un manifesto tutto spiegazzato di un piccolo teatro londinese, con l'annuncio della prima comparsa sulle scene in quella stessa settimana del rinomato dilettante provinciale, famoso al pari di Roscio, la cui unica rappresentazione nell'opera tragica più sublime del nostro bardo nazionale ha destato recentemente tanta sensazione nei circoli drammatici locali. «Sei stato alla sua recita, Joe?» mi informai. «Ci sono stato», disse Joe con enfasi solenne. «Ha destato molta sensazione?» «Beh, gli hanno buttato delle bucce di arancio, questo sì, particolarmente quando vedeva lo spettro. Per quanto io vi domando, signorino, come possa un uomo recitare la sua parte di buona voglia se interrompono sempre con degli amen il discorso fra lui e lo spettro. Un uomo può non aver avuto fortuna ed avere fatto il sagrestano», disse Joe abbassando la voce ed in tono commosso. «Ma non è una ragione perché lo si debba confondere proprio in un simile momento. Quello che io voglio dire è questo. Se una persona non deve prestare attenzione allo spettro del proprio padre, a chi dovrebbe prestarla, signorino? Tanto più se il suo cappello da lutto ha la disgrazia di essere così piccolo che il peso delle piume nere lo sbilancia, per quanto cerchi di tenerlo a posto.» L'effetto della visione di uno spettro sul volto dello stesso Joe mi informò che Herbert era entrato nella stanza. Presentai quindi Joe a Herbert, che gli tese la mano, ma Joe si ritrasse e continuò a tenere in mano il nido di uccelli. «Servo vostro, signorino», disse Joe. «Spero che voi e Pip E qui i suoi occhi caddero sul vendicatore che stava mettendo dei crostini di pane sulla tavola ed espressero con tanta evidenza l'intenzione di considerare anche quel giovinetto un membro della famiglia che io lo guardai con viso corrucciato, riuscendo così a confonderlo ancora di più. «Voglio dire, voi due signorini, spero che conserviate la vostra salute in questo posto chiuso, perché questa sarà magari un'ottima locanda, secondo il metro di Londra», disse Joe in tono confidenziale. «E ritengo che sia pienamente all'altezza, ma quanto a me non ci terrei neppure un maiale, almeno se volessi crescerlo grasso e sano e con una carne saporita». Espressa tale lusinghiera opinione sui pregi del nostro alloggio e mostrata ogni tanto la tendenza a chiamarmi signorino, Joe, invitato a sedersi a tavola, si guardò attorno, cercando nella stanza un posto adatto per posarvi il suo cappello, come se soltanto su poche, rarissime sostanze naturali esso potesse trovar posto. Finalmente lo mise sull'angolo estremo della mensola del camino, da cui poi continuò di tanto in tanto a cadere. «Preferite tè o caffè, signor Gargery?» disse Herbert, che al mattino fungeva sempre da padrone di casa. «Grazie, signorino!» disse Joe, rigido dalla testa ai piedi. «Quello che preferite voi!» «Che ne dite di un caffè?» «Grazie, signorino!» ribatte Joe, evidentemente depresso dalla proposta. «Poiché voi siete così gentile da scegliere il caffè, non mi mostrerò contrario alla vostra opinione. Ma non lo trovate un po' eccitante?» «Diciamo del tè, allora!» propose Herbert versandolo. In quel momento il cappello di Joe cadde dalla mensola ed egli balzò dalla sua seggiola per raccoglierlo e sistemarlo esattamente nello stesso punto, come se fosse richiesto dalla buona educazione che dovesse ruzzolare giù un'altra volta poco dopo. «Quando siete arrivato a Londra, signor Gargery?» «Ieri pomeriggio», disse Joe con un colpo di tosse al riparo della mano, come se avesse avuto il tempo dopo il suo arrivo di prendersi la tosse convulsa. «No, no, non era ieri». «Sì, era ieri, sì, sì, ieri pomeriggio», con un contegno che denotava una mescolanza di saggezza, sollievo e rigida imparzialità. «Non avete ancora visto nulla di Londra?» «Beh, sì, signorino», disse Joe. «Io e Wopsle siamo andati dritti al negozio Blacking, ma non ci è sembrato che corrisponda alla illustrazione che si vede sulle porte delle botteghe. Voglio dire», aggiunse Joe a mo' di spiegazione, «che lì è disegnato in modo troppo architettura rurale». Credo proprio che Joe avrebbe allungato questa parola, che esprime in modo perfetto, io trovo, un certo tipo di architettura, a me ben noto, sino a farla diventare addirittura un coro, se provvidenzialmente la sua attenzione non fosse stata attratta dal cappello che stava per cadere. In verità esso richiedeva da parte sua un'attenzione costante ed una rapidità di occhio e mano molto simile a quella necessaria al portiere nel gioco del cricket. E Joe riuscì a farne una partita straordinaria e a dar prova di una grande abilità, ora precipitandosi su di esso, afferrandolo con destrezza mentre stava per cadere, ora semplicemente fermandolo a metà strada dandogli dei colpetti, palleggiandolo qua e là per la stanza e contro la tappezzeria prima di sentirsi sicuro di poterlo ghermire, e infine mandandolo a insaccherarsi nel secchio dell'acqua sporca, dove mi presi la libertà di ripescarlo. Quanto al colletto della camicia e a quello della giacca, riusciva difficile considerarli senza perplessità. Erano entrambi misteri insolubili. Perché mai un uomo dovesse cacciarsi in ceppi così crudeli prima di ritenersi completamente vestito? Perché mai giudicasse necessario purificarsi col cilicio degli abiti da festa? Non saprei dire. Poi Joe piombò in tali inspiegabili accessi di meditazione, con la forchetta a metà strada fra piatto e bocca. Si soffermò con lo sguardo su oggetti così inverosimili. Fu squassato da colpi di tosse così insistenti, rimase seduto così lontano dal tavolo, lasciando cadere più di quanto mangiasse e pretendendo poi di non averlo lasciato cadere, che io mi sentii molto sollevato quando Herbert ci lasciò per andare nella City. Non ebbi né il buon senso né il buon cuore di capire che la colpa era tutta mia e che se io fossi stato più disinvolto con Joe anche egli lo sarebbe stato con me. Mi sentivo impaziente, mi dava i nervi ed in queste condizioni egli continuò ad accumulare nuova brace sulla mia testa. «Noi due, essendo ora soli, signorino», incominciò Joe. «Joe», lo interruppi irritato, «come puoi chiamarmi così?» Joe mi lanciò per un attimo solo uno sguardo che conteneva un'ombra di rimprovero. Per quanto assurdi fossero i suoi colletti e la sua cravatta, Non mi sfuggì la dignità che c'era in quello sguardo. «Noi due, essendo ora soli», riprese a dire, «ed io non avendo né l'intenzione né la possibilità di stare molti altri minuti, vorrei ora concludere o almeno cominciare a menzionare ciò che mi ha procurato l'attuale onore, perché se non fosse, disse Gio con la sua aria solita di lucida esposizione, unico mio desiderio quello di esserti utile, non avrei certo avuto l'onore di dividere il pane in compagnia e nell'alloggio di signori». Avevo così poca voglia di rivedere quello sguardo che non espressi nessuna rimostranza per il suo tono. «Bene, signorino», proseguì Gio, «ecco come stanno le cose. Ero l'altra sera all'osteria, Pip». Tutte le volte che cedeva all'affetto mi chiamava Pip, e tutte le volte che ricadeva nello stile educato mi chiamava signorino. «Ed ecco che arriva lì nel suo calesse Pumbleshook, la quale persona è proprio quella», disse Joe continuando in una nuova direzione, «che certe volte mi striglia a contropelo terribilmente quando confida a tutta la città che è stato lui il tuo compagno d'infanzia, considerato da te un compagno di giochi». «Sciocchezze! Lo sei stato tu, Joe!» «Credo fermamente che sia stato così, Pip», disse Joe scuotendo il capo, «quantunque ora ciò non abbia molta importanza. Ebbene, Pip, questo stesso individuo, il vero tipo del fanfarone, si avvicina a me ai tre allegri barcaioli. E lo sai bene, signorino, che una pipa e una pinta di birra danno ristoro al lavoratore senza eccitarlo troppo. E le sue parole furono: Joseph, la signorina Havisham desidera parlarti». «La signorina Havisham, Joe?» «Ella desidera», furono le parole di Pumblechook, «parlarti». Joe alzò gli occhi al suo. «Davvero, Joe? Continua, te ne prego». «Il giorno dopo, signorino...» Joe mi guardò come se io fossi molto lontano da lui. «Dopo essermi ripulito, andai a vedere la signorina A». «La signorina A, Joe? Signorina Havisham?» «Come ho detto, signorino», ripeté Joe in tono formalmente legale, come se stesse redigendo il suo testamento. «Signorina A, ossia Havisham». Le sue espressioni furono allora le seguenti: «Signor Gargery, siete in corrispondenza con il signor Pip?» Avendo ricevuto una lettera da te, fu in grado di dire: «Lo sono». «Vorreste dirgli allora», disse lei, «che Estella è tornata a casa e sarebbe felice di vederlo?» Mi sentii avvampare in viso mentre guardavo Gio. Spero che una causa remota di questo rossore sia stata la consapevolezza che, se avessi saputo prima lo scopo della sua missione, lo avrei accolto in modo più caloroso. «Biddy», proseguì Gio, «quando tornai a casa e le domandai di scriverti il messaggio, si mostrò riluttante. Disse: so che egli sarà molto felice di sentirselo dire a voce. È tempo di ferie. Voi avete piacere di vederlo. Andateci». «Ora ho concluso, signorino», disse Gio alzandosi dalla seggiola. «Pip, io ti desidero sempre tanto bene e tanta prosperità, e di salire sempre più in alto». «Ma non te ne andrai ora, Joe?» «Sì, me ne vado». «Ma tornerai per cena?» «No, non tornerò». I nostri occhi si incontrarono, e tutti i signorini sparirono da quel nobile cuore, mentre egli mi tendeva la mano. «Pip, mio caro vecchio Pip, la vita è fatta di tante divisioni saldate insieme, per così dire. E uno batte il ferro, e un altro lo stagno, e uno batte l'oro, e un altro il rame. Le divisioni tra di loro sono inevitabili, e bisogna affrontarle quando si presentano. Se oggi è stato commesso uno sbaglio, la colpa è mia. Tu ed io non siamo due persone che possono stare insieme a Londra, e nemmeno in nessun altro posto se non nell'intimità, tra gente che si conosce o tra amici. Non è che io sia orgoglioso, ma voglio fare le cose bene. E quindi non mi vedrai più vestito così. Mi sento a disagio in questi panni, mi sento a disagio fuori dalla fucina, della cucina e della palude. Non mi troverai che una metà di difetti, se mi penserai nel mio abito da lavoro, con in mano il martello o anche la pipa. Non mi troverai che una metà di difetti, supponendo che tu debba un giorno desiderare di vedermi. Se affacciandoti alla finestra della fucina vedrai Joe, il fabbro, lì, e alla vecchia incudine, col vecchio grembiule bruciacchiato, intento al solito lavoro. Sono uno zoticone, ma spero di aver tirato fuori finalmente qualcosa di giusto. E così, Dio ti benedica, caro Pip, mio caro, caro Pip, Dio ti benedica. Non mi ero sbagliato nella mia impressione che vi era in lui una semplice dignità. Mentre pronunciava queste parole, quel suo abbigliamento non riusciva a diminuirla, come non lo avrebbe potuto fare in cielo. Egli mi sfiorò dolcemente la fronte ed uscì. Non appena riuscì a riprendermi dalla sorpresa, mi affrettai a corrergli dietro e a cercarlo per le vie vicine. Ma egli era ormai sparito. Era evidente che l'indomani avrei dovuto recarmi nella nostra cittadina. E nel primo impeto del pentimento mi apparve altrettanto evidente che avrei dovuto andare a stare da giù. Ma dopo aver prenotato il posto sulla diligenza dell'indomani, essere andato sino a casa Pocket ed esserne tornato, non mi sentii affatto persuaso circa quest'ultimo punto e incominciai ad inventare delle ragioni ed a trovarmi delle giustificazioni per scendere alla locanda del cinghiale azzurro. Avevo fissato il posto sulla diligenza del pomeriggio e poiché si era ormai di nuovo in pieno inverno, non sarei giunto a destinazione che quando era buio già da parecchio. La partenza da Cross Keys era alle 2, ma io giunsi sul posto con un quarto d'ora di anticipo, avendo al mio seguito il Vendicatore, se posso usare questa espressione a proposito di un essere che non era mai al mio seguito, se appena poteva farne a meno. A quell'epoca era d'uso trasferire i forzati alle colonie di pena sulla costa, dove si trovavano le navi prigione, facendoli viaggiare sull'imperiale delle diligenze. Ne avevo spesso sentito parlare, e più di una volta li avevo visti sulle strade maestre, con le gambe incatenate penzolanti dal tetto delle vetture. Non ebbi quindi motivo di sorprendermi quando Herbert, incontrandomi nella piazza, mi avvertì che due forzati avrebbero fatto il viaggio con me. Ma avevo una buona ragione ormai inveterata per sentirmi venire meno nell'udire pronunciare la parola forzato. «Guarda, eccoli lì!» disse Herbert, «che li portano fuori dall'osteria! Che spettacolo vergognoso e degradante!» I due forzati erano manettati insieme e avevano i ferri ai piedi. Ferri di un modello che io ben conoscevo e indossavano la divisa che pure conoscevo bene.